Siete alla ricerca di due numeri la cui somma è meno 4 e il cui prodotto è meno 21. Quali sono?